E allora, con discreti 22 minuti di ritardo, siamo di nuovo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Radio Possum, stasera parliamo di... Per la prima volta affrontiamo un tema che non è strettamente animalista, proviamo a cominciare a introdurre argomenti come l'ecologia radicale, sempre partendo da, come dire, da fatti di, chiamiamoli, di cronaca, appigli del reale, realtà che succedono nel mondo. Stasera parliamo di Indonesia e dell'opera di deforestazione che sta avvenendo ormai da tempo in Indonesia, con effetti ecologici assolutamente drammatici, sia per l'ecosistema che per gli animali che ci vivono, e ovviamente anche per le popolazioni indigene che sono nel Borneo e sull'isola di Sumatra, che vedono devastati il loro habitat naturale, no Mocio? E certo. Cercheremo anche di metterci in contatto con un attivista che si occupa di queste cose più nello specifico. Vi lasciamo così alla fine della canzone e poi dopo incominciamo a parlare più nel dettaglio. Don't feel, they have to feel that people don't think. E allora, appunto, la canzone è finita, vi abbiamo fatto ascoltare gli ultimi 5 secondi. Diciamo che il problema di cui andiamo a parlare questa sera è un problema che ci riguarda da vicino, nel senso che poi sì, ci sono delle aziende che sono responsabili, ma poi le aziende sono così, i nostri venditori, siamo noi poi che compriamo dalle aziende, abbiamo anche, diciamo, una responsabilità in prima persona su quello che facciamo, su quello che compriamo, e l'azienda più sotto inchiesta è l'azienda Sinarmas, che è... tra le maggiori responsabili delle devastazioni delle foreste dell'Indonesia, foreste che sono disboscate per varie ragioni. La ragione principale è l'industria della carta, le fibre degli alberi tropicali sono ottime fibre per fare la carta, che poi ritroviamo nell'industria dei giocattoli. Ci sono società come le più grandi società di giocattoli che usano questa carta per le impacchettazioni dei giocattoli, che sono per esempio Mattel, abbiamo la Lego, abbiamo la Disney e altre società minori. Dopodiché ci sono società di vario tipo, come possono essere la Acer, ad esempio, come possono essere la Xerox nelle fotocopie, Walmart e altre società internazionali, e poi ci sono anche industrie italiane come sono Mondadori, Rizzoli. Specialmente, diciamo che i libri per bambini di favole di Rizzoli sono quasi tutti fatti su carta che proviene, carta di tipo MHT, ossia la carta che proviene dalle foreste pluviali tropicali, in particolare dalle foreste dell'Indonesia. Diciamo che il secondo responsabile del disboscamento dell'Indonesia è invece l'industria dell'olio di palma, e le foreste dell'Indonesia vengono disboscate anche in parte per far posto alle piantagioni di olio di palma. Anche queste vengono usate da grandi aziende internazionali come l'italianissima Ferrero. La Nutella, diciamo, è prodotta, ad esempio, un prodotto tipico che, oltre, insomma, ad essere per niente vegan, è anche prodotto con olio di palma. Che un'altra compagna ci dice che la Nutella fa schifo. Questo è però un tuo commento personalissimo, non credo che molti concorderanno con te. No, io mi associo, la Nutella è veramente una cosa orribile, secondo me, veramente schifo. Vegan o non vegan, al di là di questo discorso, ma bah. Vabbè, vegan o non vegan, dopodiché ci sta anche Danone, tra le aziende incriminate, che insomma è al centro dell'attenzione per varie ragioni. E poi, insomma, su internet si trova un elenco dettagliato di tutte queste società, ma adesso parleremo più nello specifico, insomma, abbiamo fatto un po' riassunto con la compagna che ci spiegherà più da vicino che cosa sta succedendo in Indonesia, chi sono i responsabili e dove quali sono gli interessi economici dietro, che cosa avviene, cosa succede appunto a queste foreste, a chi le abita, siano essi animali non umani che animali umani, proprio popolazioni, come dire, locali, indigene, che vedono il loro ecosistema assolutamente devastato. Prima del pezzo musicale e dell'intervista vera e propria, ci tenevamo a sottolineare come appunto, no, la nostra linea è quella dell'antispecismo, come cioè dimostrare, parlare, cercare di spiegare come lo sfruttamento animale della terra sia inevitabilmente connesso allo sfruttamento umano. Noi riteniamo che la distruzione di ecosistemi da parte del grande interesse del capitale e sul quale comunque anche gli uomini comuni in quanto consumatori hanno ovviamente pesantissime responsabilità sia un esempio molto evidente di come la liberazione umana sia strettamente connessa alla liberazione animale, no? Certo, va bene, io direi lasciamo uno stacco musicale e poi parliamo più nel dettaglio. E allora ritorniamo in diretta, siamo in collegamento, ci senti? Sì, certo. Ah, ok, no, vabbè, ciao, certo, buonasera. È una parola, questa radio è una parola grossa per i collegamenti telefonici. Va bene, senti, noi abbiamo fatto una breve introduzione per quanto riguarda, insomma, quello che è lo sfruttamento e la devastazione delle foreste in Indonesia. Abbiamo già citato alcuni nomi di aziende che comprano e di aziende che vendono, abbiamo citato Sinarmas e anche altre cose, poi insomma, però aspettavamo di parlare con te perché ci spiegassi bene che cosa sta succedendo in Indonesia. Intanto partiamo da un dato, in questo momento qual è la situazione in Indonesia? Cioè quante foreste ci sono ancora? Vai. Allora, no, ti spiego, io ho un contatto diretto con un grande amico che è Sergio Baffoni e lui è un esperto di foreste proprio incredibile, ha un'associazione che si chiama, cioè collabora con un'associazione che si chiama Terra qui in Italia, adesso sta in Germania e c'ha una nuova rete di collaborazioni con una, diciamo, un network che si occupa, europeo, che si occupa appunto di raccogliere tutte le associazioni ambientaliste che si occupano di deforestazione, insomma, che cercano di contrastarla. Però faccio un piccolo appunto solo perché sentivo prima che parlavate della Nutella, a quanto pare la Nutella recentemente ha praticamente desistito dall'utilizzare olio di palma perché hanno fatto pressioni, Greenpeace ha fatto una raccolta firme, quindi pare che la Ferrero non utilizzi più, anche se insomma anche a me la Nutella non piace, comunque poi sono vegan quindi non la mangio, per cui pare questa cosa, per cui la situazione è sempre in via di peggioramento perché la richiesta è sempre più grande, l'olio di, sia per il legname che per l'olio di palma, perché poi l'olio di palma non è utilizzato soltanto per l'industria dolciaria ma è utilizzato soprattutto per il biodiesel. e quindi siccome il biodiesel sta prendendo il mercato soprattutto occidentale, la richiesta è sempre maggiore. Per cui tu citavi la Sinarmas, che poi è affiliata alla Asia Pulp and Paper, sono diciamo è un gruppo enorme cartario e che produce diciamo sia polpa, carta e olio di palma, ed è tra i 10 colossi mondiali, e quindi la situazione diciamo che sta, diciamo più o meno sono 2 milioni di ettari di foreste l'anno, tra convertite e distrutte per il legname, ecco. Questa è la situazione. Okay. E non è in via di miglioramento, perché comunque la Asia Pulp and Paper sta invadendo il mercato occidentale. È entrata in Italia, è entrata in Germania, in Olanda, e ci sono delle, diciamo, una situazione abbastanza più che altro pressante dal punto di vista politico, perché l'ho scoperto oggi, perché questo mio amico mi ha mandato un po' di materiale. La Asia Pulp and Paper finanzia un gruppo politico in America che si chiama il Tea Party, non so se ne avete sentito parlare. Sono direi, insomma. Sono dei reazionari populisti, e quindi stanno finanziando queste organizzazioni americane, e in Italia è nato questo sito che si chiama Disarming the Green, che è veramente, invito tutti a visitare il sito, perché è talmente puerile e ridicolo che veramente appunto stanno facendo tutta una campagna contro gli ambientalisti, rivedendo tutta una serie di formule, di azioni, di strategie, per far vedere che l'ambientalismo è semplicemente una manovra politica contro i diritti più, diciamo, basilari dei popoli, degli indigeni, che invece hanno, diciamo, un aiuto da questo tipo di come dire, di invasioni delle multinazionali, che secondo loro portano invece una certa ricchezza e benessere, cosa che assolutamente non è vera, perché se calcoli che nelle foreste vivono circa tre, più o meno saranno dunque in tutto il mondo 1,5 miliardi quasi di persone che vivono nelle foreste, e mi sembra che in Indonesia siano circa 30 milioni, forse anche di più, tra cui 300 tipi diversi di etnie, con 700 linguaggi diversi, cioè una ricchezza enorme dal punto di vista umano. Se poi invece parliamo degli animali, la situazione è ancora peggio, perché in 100 anni gli oranghi, per esempio, da 700.000 esemplari sono arrivati a 30.000-40.000, rinoceronti, elefanti, a Sumatra sono poche centinaia di esemplari, la tigre per esempio è in netto declino, e quindi la situazione è terribile. Purtroppo non se ne parla, perché queste grandi associazioni diciamo che lavorano per strutturare e contrastare, soltanto che non c'è una cultura del boicottaggio vero e proprio, e quindi vedono olio di palma e dicono vabbè, che vuoi che cambi, no? Magari utilizzare o no, oppure fare una scelta precisa, insomma il discorso è di educazione probabilmente. Senti Maria, io ti volevo chiedere una cosa, ma prima accennavi sia alla popolazione animale che alla popolazione umana indigena, no? Ti volevo chiedere, tu sei stata lì, no? E, sì. Qual è la condizione sia degli animali che delle popolazioni indigene? Per esempio in alcune zone del mondo, come per esempio in America Latina, le popolazioni indigene si stanno abbastanza ribellando alle forme di sfruttamento intensivo della terra, per esempio alle miniere o ai pascoli e via dicendo. E questo è un bel esempio di come proprio da un punto di vista antispecista si può dimostrare come in realtà la liberazione animale e la liberazione della terra non sono qualcosa di antitetico alla liberazione umana, ma anzi vanno di pari passo. Invece in Indonesia com'è la situazione anche dal punto di vista della repressione poliziesca, del controllo militare in queste terre? Prima accennavi alla questione della biodiversità animale e della biodiversità umana, no? Con tutte quelle lingue, quei dialetti che rischiano di scomparire. Ci sono reazioni da parte delle popolazioni indigene e com'è, a che livello è la repressione, sia contro gli attivisti, diciamo, ecologisti, sia anche contro gli attivisti per i diritti delle minoranze? Guarda, a riguardo la repressione è veramente violenta. Per esempio nel 2008, questo è un fatto che praticamente è avvenuto, ma non è un caso isolato, in un villaggio a Sumatra, dopo circa 10 anni di resistenza da parte del popolo indigeno, sempre la Asia Pulp and Paper, con piccole società affiliate, mandò la polizia a incendiare la foresta intorno a questo villaggio, proprio perché non riuscivano a mandare via questi indigeni. Due bambini morti, quasi tutte le persone del villaggio sono state arrestate e condannate per resistenza alle forze della polizia. C'è una indagine di Amnesty International riguardo questo caso che fu eclatante, ma ripeto, non è isolato, perché poi il governo supporta la deforestazione, perché secondo loro porta, diciamo, denaro, perché è un business enorme, ma non per il paese, è il business è dal paese verso l'estero. In realtà ci sono interessi politici enormi e c'è un'illegalità dilagante, perché poi comunque, a parte il discorso delle persone che perdono la loro terra e quindi non hanno più alternative, ho conosciuto persone che facevano parte di un gruppo indigeno che sono i Dayak, che circa 30 anni fa ancora tagliavano le teste all'interno della foresta, adesso non più, ma insomma loro, molti non si sono piegati e quindi sono diventati guide turistiche, oppure lavorano per esempio nei parchi nazionali, fanno i rangers, oppure lavorano nei centri di riabilitazione degli oranghi, però molti si sono piegati a lavorare nelle fabbriche, nelle legnerie, nelle piantagioni di palme, perché non hanno alternativa, e quindi il discorso è veramente di una violenza insostenibile e incontrollabile. Se poi consideri che l'Indonesia è praticamente l'1% delle terre emerse del pianeta e ospita un'infinità di flora e fauna, cioè circa il 15% dei mammiferi del mondo risiedono in Indonesia, 19% delle specie floreali, il 17% dei rettili, cioè è una biodiversità incredibile, la stanno uccidendo, perché per esempio per gli oranghi, incendiando le foreste, perdendo habitat, molti muoiono e molti vengono purtroppo catturati e portati nei circhi oppure negli zoo, oppure addirittura delle cose atroci che ho letto poco tempo fa, che ci sono addirittura dei bordelli dove gli oranghi femmine vengono incatenati ai letti e fatti prostituire, cioè ci sono delle situazioni veramente da film dell'orrore, e quindi incontrollabile, perché dietro c'è un interesse troppo grosso, e che sono i soldi, solo quello. Sì. Senti una cosa. Diciamo, questa situazione qui, diciamo, le prospettive in questo momento sono cioè quello di, diciamo, c'è stato anche un interessamento internazionale anche da parte di varie aziende, eccetera. Secondo te si arriverà a una soluzione? Perché, nel senso, io ho letto anche che le foreste dell'Indonesia sono delle foreste particolari che comunque trattengono una quantità di CO2 impressionante. Quindi il danno, perché, l'impatto perché ambientale che ci sarà fortissimo comunque. Ma lo è, pensa che, allora succede questo, che moltissime foreste in Indonesia sono di torba. La torba praticamente è carbonio puro e quindi sono tutti sedimenti che nelle migliaia di anni si sono depositati sul terreno e sono arrivati a profondità anche di 4 metri. Cosa fanno queste aziende? E c'è una legge che vieta l'utilizzo di foreste torbiere, però ovviamente questa cosa, quando ci sono i soldi di mezzo, non conta, per cui cosa fanno? Deforestano lì dove c'è la torba per impiantare per esempio le acace, che sono delle piante che appunto dalle quali si estrae la polpa per la carta, bruciano il terreno perché la torba, se non la bruci, è acida e quindi bruciandola diventa basica, si brucia e tolgono tutto il residuo di piante che non hanno tagliato con meccanicamente. E che succede? Che anche a 4 metri l'incendio prosegue per giorni, settimane, mesi e si scavano delle intere gallerie sotterranee che poi marciano, camminano, no? E arrivano ad altre foreste, ad altre piantagioni, per cui a un certo punto si vedono improvvisi incendi e questa cosa provoca una catastrofe dal punto di vista climatico, anche perché l'Indonesia è il terzo paese al mondo per emissioni di CO2, il primo sono gli Stati Uniti, poi c'è la Cina e poi c'è l'Indonesia, cioè sono numeri enormi di emissioni di CO2, proprio per il fatto appunto che incendiano le foreste. Tu se passi sopra l'Indonesia con un aereo sono fuochi ovunque, chiazze di foreste bruciate senza controllo alcuno, perché poi la polizia ovviamente fa il gioco loro, sono corrotti, non c'è controllo. È vero che le associazioni spingono, ci sono, per esempio c'è la Rainforest Action Network, che è una grandissima associazione americana che ha per esempio portato a grossi risultati. Qualche anno fa in Italia la Gucci, Ferragamo, tutta una serie di grandissime firme hanno rinunciato ai packaging che venivano dall'Indonesia e che vendevano una certa PAC 2000 che comprava dalla Asia Pulp and Paper. Quindi anche la la Xerox, la Fuji, cioè ci sono un sacco di aziende che lentamente arrivano, no, a capire che comunque insomma l'ambiente è importante, al di là poi dell'immagine pubblica che insomma inizia a contare. La Mattel l'anno scorso ha subito un attacco tremendo proprio per gli incarti e quindi perché venivano appunto dalla Asia Pulp and Paper. Ecco, a questo proposito ti volevo chiedere, ma sì. Proprio per offrire qualche informazione pratica a chi ci ascolta, no? In sintesi, siccome è ovvio che la colpa di tutto questo è delle grosse aziende, ma c'è anche una colpa molto pesante del consumatore medio occidentale, no? Lo stesso discorso che possiamo fare per la carne, per tutti i prodotti relativi allo sfruttamento animale, vale ovviamente anche per tutto ciò che riguarda lo sfruttamento della terra, come nel caso della forestazione in India. Causa anche la morte degli animali, tra l'altro, come appena detto. Esatto. Riteniamo questo aspetto veramente fondamentale da ribadire e da spiegare, insomma. E cioè che non ci può essere liberazione animale se non c'è anche una sorta di, chiamiamola, liberazione della terra, no? Però se tu dovessi appunto dare veramente qualche informazione pratica, ci puoi dare nomi di aziende, sia per quanto riguarda l'industria della carta che per quanto riguarda l'olio di palma, di modo da dare una sorta di lista di prodotti o di marche in qualche modo da boicottare? Ah sì, guarda, ce ne sono. Allora guarda, vabbè, la Kit Kat, che poi sarebbe Nestlé, uscì l'anno scorso la campagna di Greenpeace che faceva vedere una barretta con un dito di orango. Le Pringles, le patatine, il Philadelphia, Burger King, che poi, vabbè, scusami se ti interrompo, piccolo inciso, le Pringles tra l'altro sono di marca Procter & Gamble, che è il colosso internazionale, appunto, di sezione, esatto. Quindi sì, infatti. A schifo si aggiunge schifo, insomma. E poi hanno anche il coraggio di scrivere vegan, oltre a fare sperimentazione animale, cioè ha le mani in pasta dappertutto, quindi fa saponi, cosmetica, fa pure i formaggi, cioè io non riesco neanche a immaginare le schifezze che mette dentro, tra l'olio di tutti i tipi di margarina ovviamente, che vanno banditi assolutamente, anche, e poi il discorso che vorrei fare rispetto al vegan è che io che sono vegan e vado al supermercato raramente, se cerco, diciamo, quando compro un prodotto, la prima cosa che faccio è passo veramente 20 minuti a leggere gli ingredienti, e non basta che non ci sia carne e prodotti di origine animale, secondo me la cosa importante è, cioè, essere etico dal punto di vista globale, universale, non basta che non ci sia prodotto di derivazione animale, perché se tu compri la margarina che è vegan, ma dentro ci sta di tutto e di più, a quel punto non ha proprio senso, secondo me, cioè deve essere un discorso generale, certo. Non basta. E poi vabbè, tutte le industrie, vabbè, che ti devo dire, la carta deve essere certificata, per esempio, cioè l'unica certificazione buona e fedele a certi standard è la FSC, che si trova, insomma, la vedi anche nella carta riciclata, eccetera. Ce n'è una balorda che è la PAFC, quindi quella certifica le cose che vengono dalla Asia Pulp and Paper, quindi uno per sicurezza dice, beh, FSC se devi proprio usare la carta. Io eviterei di usare la carta, per esempio adesso mi sono fatta il mio schemino, ma c'ho il computer davanti, non ho le cose stampate sulla carta. E poi, guarda, ti posso dire che oggi mi è arrivata una lista, solo che sinceramente non li conosco, ma io li dico perché poi non si sa mai, questo mio amico mi ha mandato tutta la lista di italiani, che tra l'altro noi siamo i primi importatori, nel mondo, cioè noi importiamo 50 milioni di euro tra polpa e carta proveniente dall'Indonesia, questa cosa fa pensare, e dunque stavo cercando, vediamo un po' clienti che non riesco più a trovare. Comunque guarda, la cosa principale secondo me è informarsi, nel senso, riguardo la carta è ovvio che, per esempio, questo mio amico mi diceva che riguardo per esempio ai prodotti dolciari ci sono anche piccoli produttori che lavorano sull'eco solidale, che usano olio di palma che viene per esempio dal Sud America, e sono piccole piantagioni autoctone, quindi a quel punto, soltanto il problema è che non è indicato, quindi nel dubbio uno sinceramente evita. Tra l'altro, riguardo l'olio di palma, esiste una grande menzogna riguardo dell'olio di palma sostenibile, perché c'è questo grande organismo di controllo che si chiama RSPO, che sarebbe Roundtable Sustainable Palm Oil, e alla cui carica, diciamo, generale, il direttore amministrativo di questa organizzazione è la Unilever, per dire. Altri organismi di controllo all'interno sono la Nestlé, la Cargill, cioè tutti produttori, capito? Per cui se la fanno, se la cantano e se la suonano. E quindi alla fine è un po' difficile da controllare, come fenomeno, perché la Asia Pulp and Paper e la Sinarmas non mettono il loro logo su ciò che producono e che distribuiscono. Bisogna saperlo attraverso le campagne. Quindi anche Eyes of the Forest, che è un'altra organizzazione, e, insomma, l'informazione è quella, purtroppo, cioè non è che ci sono grandi canali, l'unica cosa, guarda, internet è fantastico, comunque basta scrivere olio di palma, certificazioni e te esce fuori di tutto e di più. Riguardo il legname, poi è sempre il solito discorso, meno lo paghi, e più c'è il rischio che venga da lì, quindi. E poi voglio fare un piccolo, devo raccontare una piccola storia, perché sempre questo mio amico di terra 2 anni fa attaccò su Palazzo Venezia, non so se vi ricordate, un grandissimo striscione che era una specie di pubblicità così un po' ironica riguardo la pigna, che è uno dei maggiori importatori di di materia prima dall'Indonesia e quindi si fornisce dalla Asia Pulp and Paper. Li hanno denunciati dicendo appunto che lo striscione diceva che la pigna distruggeva le foreste, li hanno denunciati e hanno portato in giudizio a Bergamo. Tra l'altro l'amministratore, il direttore della pigna è un certo Iannone, che è un deputato del Partito delle Libertà. Li hanno condannati nonostante abbiano portato documenti e certificati, analisi delle fibre che hanno trovato all'interno per esempio dei quaderni monocromo, che purtroppo sono, cioè quasi quasi trovi solo quelle nelle cartolerie. Li hanno condannati a pagare 20.000 euro, adesso riandranno in appello. Comunque avevano praticamente analisi fatte in America, dove si era evidenziata la presenza di fibre di alberi millenari, cioè praticamente c'erano proprio neanche fibre da acacia, dice vabbè, viene, no, cioè un mix di alberi di foreste tropicali, quindi neanche a dire che c'è giustizia, perché se alla fine pure ti scoprono, no, con tutto, con tanto di documenti, come vedi, poi il potere vince, nel senso, questo è un interesse politico, perché poi io non posso immaginare quanti soldi sta investendo la Asia Pulp and Paper in Europa. Va bene, senti una cosa, noi ti volevamo chiedere innanzitutto se ci sono dei contatti su internet dove le persone si possono appunto informare, possono partecipare un pochino più attivamente, insomma se ci stanno un po' di riferimenti in rete o anche da altre parti che ci puoi dare. Sì, allora guarda, io avrei un sito ma non è molto aggiornato, però se qualcuno ogni tanto lo vuole visitare è www.progettoborneo.it, ma se volete veramente notizie aggiornatissime, uno è www.salvaleforeste.it, che è un sito appunto molto molto accurato, ma si occupa di foreste pluviali di tutto il mondo, di quelle poche rimaste, diciamo. E poi c'è, vabbè, ci sono tutte le campagne Greenpeace, ma anche quelle a volte sono un po' strutturate, così, come dire, un po' programmate, c'è sempre una strategia di mercato dietro, sai, di pubblicità, eccetera. Però sono utili perché comunque, cioè, nel senso, come dati e numeri sono molto attendibili. Poi c'è anche quest'altra terraonlus.it, che è un'altra associazione interessante che si occupa appunto di tutto ciò che è ambiente, quindi emissioni, auto, tutto ciò che riguarda il clima e l'inquinamento. E si trovano anche un sacco di report e dossier da scaricare. E poi per il resto, basta, guarda, anche per esempio andare nei siti stranieri, per chi conosce l'inglese, c'è quello di Rainforest Action Network, che l'acronimo è RAN, mi sembra, Action, sì, RAN, scritto grande, e poi c'è il sito del Borneo Orangutan Survival, BOSS, che è un'associazione che si occupa di recupero e salvaguardia degli oranghi nel Kalimantan centrale, che sarebbe la zona poi che ho visitato io, ed è, questa è un'associazione seria, mentre l'associazione che io purtroppo ho sottoscritto, sono stata associata e ho visitato il parco, il care center di questa associazione, purtroppo, e sarebbe l'Orangutan Foundation International, recentemente ha preso accordi con la Asia Pulp and Paper per un progetto di salvaguardia e difesa delle foreste che fino ad ora hanno distrutto, ma continuano a fare di nascosto, per esempio a Sumatra, e quindi questa cosa mi ha un po' veramente amareggiato, perché io tra l'altro ho contattato la fondatrice di questo parco quando sono andata 3 anni fa, che è Birute Galdi, che ha creato un impero, nel senso, un impero in senso buono, e adesso sta facendo business con il parco, con il care center, e chiede migliaia di euro per visitare questi posti. E quindi, insomma, sai, quando vedono i soldi, a quanto pare. Sì, questo purtroppo è. E questo è il vero male, non è, cioè, oddio, il vero male del mondo è l'essere umano, e questo, su questo penso che siamo abbastanza d'accordo. Però poi i sistemi che utilizza di distruzione sono sempre legati al denaro, comunque. Certo. Va bene, e niente, allora, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per questo contributo che hai dato e ti salutiamo, e così un abbraccio e anche una buona lotta. Grazie a voi, buona serata. Grazie della disponibilità, anche di averci aspettato fino a quest'ora, non proprio presto. Grazie a voi. Va bene, ciao, dai. Buonanotte. Ciao, buon proseguimento. Grazie, ciao. E allora, così, dopo questo approfondimento sull'Indonesia, una traccia musicale e poi approcceremo un pochino altri temi. Esatto, direi la traccia musicale appropriata visto l'argomento, no? Dillo te che pronunci bene l'inglese, il mio inglese è abbastanza grottesco. Io tipicamente pronuncio bene l'inglese proprio. Sicuramente meglio di me, dai. Allora, questi sono gli Heart Crisis. No, sono gli Heart Crisis, se la dica la romana, perché tanto non la so la pronuncia, sennò mi prendete in giro. E la canzone è Destroy the Machines. E allora torniamo in studio dopo il contributo di Maria Teresa, che ci ha raccontato un po' la situazione in Indonesia. Niente, una cosa al volo: noi ci teniamo a ribadire che Radio Possum è una trasmissione antispecista per la liberazione animale e per la liberazione della terra. Il tema dell'ecologia radicale in Italia è un po' meno sentito rispetto ad altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti o l'America Latina, dove dove accanto alle tematiche per la liberazione animale sono anche molto forti le tematiche per la liberazione della terra, quindi contro le nocività, contro le biotecnologie, contro la deforestazione, il disboscamento, la cementificazione e via dicendo. Eppure l'Italia è un paese dove per esempio noi trasmettiamo da Roma, e Roma è una città dove per esempio il processo di cementificazione è molto forte, inesorabile, distrugge habitat, distrugge quello contemporaneo all'agro-romano dove vivono delle specie animali e via dicendo. Ecco, riteniamo importante ribadire questo concetto perché sono due temi, liberazione animale e liberazione, diciamo, della terra, che vanno di pari passo, e l'uno è legato inesorabilmente e logicamente all'altro. Facciamo un esempio proprio terra-terra, e questo è un, come dire, un richiamo, tra virgolette, non perché ci sentiamo maestri di niente e di nessuno, ma così è un modo per dialogare, ecco, a quelle realtà che magari in Italia sono un po' più animaliste, però si disinteressano di temi come appunto l'ecologia radicale e la liberazione animale, il mondo che sogniamo di dove appunto gli animali sono liberi e lontani da ogni forma di sfruttamento umano, è necessariamente legato comunque anche alla tutela di habitat per questi animali selvatici. Distruggere un bosco probabilmente uccide più animali di quanto li può uccidere in un anno un mattatoio o un laboratorio di vivisezione o un allevamento di animali da pelliccia, no? Sì, diciamo che poi dipende pure dalla grandezza del... Sì, certo, è chiaro. Sì, comunque è evidente che il nesso è... diciamo il filo è molto forte, nel senso che poi comunque si possono anche liberare tutti gli animali, ma se sono finite le zone selvagge dove poter vivere, e questo riguarda anche gli esseri umani, perché poi la contraddizione di vivere in una città, io me la vivo tutti i giorni, che comunque mi alzo la mattina e davanti a me c'è un palazzo, questa cosa è un problema, vado in bicicletta, mi devo respirare l'inquinamento della gente che mi sgasa addosso. Insomma, queste sono contraddizioni che poi mi fanno stare male sia fisicamente che pure psicologicamente, perché mi sento costretto in una gabbia di cemento. E questa cosa riguarda sia me, sia riguarda tanti altri animali, che se io ho una possibilità di sopravvivenza in una città, perché comunque sia posso andare a comprarmi da mangiare al supermercato, o posso andare al mercato, o posso ricavare nei piccoli spazi verdi un orto, e quello che è altri animali che non sono addomesticati, come possono essere gli animali selvaggi, gli animali che vivono nei boschi, molti insetti e insomma... I corsi d'acqua anche, per esempio. Nei corsi d'acqua, insomma, non hanno certamente la possibilità, una possibilità di sopravvivenza in un mondo del genere. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che quando riparliamo di liberazione animale non può essere scollegata in nessun momento dalla liberazione della terra. Del resto ce l'ha detto appunto Maria Teresa prima parlando dell'Indonesia, ma è una cosa che possiamo trovare in Cile, in Argentina con i Mapuche e via dicendo. Lo sfruttamento intensivo della terra, delle risorse della terra, dei boschi, dei corsi d'acqua e via dicendo produce sia sfruttamento degli animali. Pensiamo all'Indonesia e pensiamo appunto al caso degli oranghi, no? Quelli che sopravvivono non vengono portati nei circhi, vengono portati negli zoo, vengono addirittura usati come, diciamo, oggetti sessuali, che è una cosa veramente raccapricciante. Ma anche lo sfruttamento stesso degli uomini, degli esseri umani, delle persone, delle tribù indigene autoctone che vivono là da millenni all'interno di un ecosistema ben preciso, e che da un momento all'altro, dalla prepotenza dell'uomo industriale, civilizzato, sviluppato, vengono cancellati dalla faccia della terra. Insomma, il problema è sempre lì, è il problema dell'autoritarismo, è il problema dell'uomo moderno che si crede sempre al di sopra di tutto e tutti, si crede al di sopra degli animali, si crede al di sopra della terra, e si crede anche al di sopra degli uomini che ancora vivono in maniera, diciamo, selvatica, senza fare l'elogio adesso del buon selvaggio di Rousseau, però sì, assolutamente vivono però in un legame ancora molto stretto della terra, e che infatti come vengono chiamati, come vengono apostrofati come barbari, come selvaggi, con una sorta ancora di retroterra del Settecento, del colonialismo settecentesco e ottocentesco. E vabbè, torniamo invece a una cosa più italiana, nello specifico più romana. 16 giugno c'è il corteo nazionale contro Green Hill e la vivisezione, promosso da Occupy Green Hill e il coordinamento antispecista del Lazio. Noi come Radio Possum ci saremo, perché crediamo che sia un'occasione di aggregazione importante del movimento animalista e antispecista italiano, e ci saremo anche perché vogliamo diffondere i nostri contenuti con un volantino e via dicendo. Così nell'ultimo anno, diciamo che la lotta contro Green Hill e contro la vivisezione ha subito una forte accelerazione in senso quantitativo. Un numero sempre maggiore di persone sta partecipando, si sta muovendo, e forse magari a discapito un po' della dimensione qualitativa. Noi, ecco, ci terremmo il nostro auspicio in piazza il 16 giugno non ci siano politici, soprattutto non ci sia una politica che da ormai un anno, due anni ci sta rompendo i coglioni con questa storia. Lei che combatte contro la vivisezione, lei che combatte contro che è la paladina degli animali. Facciamo il nome, è necessario farlo, è solo ridondante. Sì, se vuoi possiamo anche dire lei che ha una lei che è come si dice, compartecipe. Pare sia compartecipe. Che pare sia in due società di industria ittica, quindi insomma, si parla di pesci. Che fare, esatto. Però si sa che i pesci non sono proprio animali. Diciamo, mia nonna che ancora mi dice, ma tu sei vegano, ma il prosciutto te lo puoi mangiare, mica è carne. No. I pesci infatti appartengono al regno minerale, sono un po' come i sassi. E quindi niente, no, adesso al di là di tutto speriamo di non trovare speculazioni politiche e vorremmo invitare a riflettere su una cosa. Magari si può pensare che l'appoggio politico sia una scorciatoia per ottenere un risultato sull'immediato su un determinato obiettivo, no? Che è per esempio quello di chiudere Green Hill. Noi pensiamo però che a lungo andare si riveli controproducente, perché la strumentalizzazione politica in realtà porta incoerenza e quindi annacqua qualitativamente i contenuti di qualsiasi movimento radicale che si propone di cambiare un esistente che è così sedimentato nella coscienza delle persone, che è lo sfruttamento animale. E per cui sì, da un punto di vista tattico magari molte volte ci sentiamo dire dalle persone è capitato anche di recente, no, questo discorso, ci siamo sentiti dire dalle persone ma a me non me ne frega niente, l'importante sono gli animali. Noi pensiamo che con un discorso, l'importante sono i cani di Green Hill, noi pensiamo che con un discorso così non si va da nessuna parte. Cioè, magari si riesce anche a chiudere Green Hill, magari si salvano anche 100 cani, 200 cani, per carità è una cosa importantissima, però quello che vogliamo noi non è che Green Hill magari verrà rimpiazzato da un altro allevamento che manderà comunque a morire altri 100-200 cani e quindi il saldo, il bilancio sarà sempre in pari, quindi sempre negativo per gli animali. Noi riteniamo sia importante cambiare invece veramente la mentalità delle persone e insegnarli sempre questa pedagogia, far capire, però diffondere i nostri contenuti che sono quelli appunto della totale liberazione di qualsiasi essere vivente. Sì. E in questo una strumentalizzazione politica non può avere nessuno spazio. Sì, quello che ci interessa, come dicevi appunto tu, è cambiare lo stato delle cose, perché insomma poi non possiamo neanche chiuderci dentro una palla di vetro e far finta che esistano soltanto gli animali, perché poi insomma la brambilla, se anche si interessa una volta per Green Hill o per altre cose a lei funzionali per la sua diciamo così carriera politica, dobbiamo ricordarci che poi comunque è stata una ministra del PDL e di responsabilità su una pelle ce n'ha tante, sia sulla pelle sua per quanto riguarda gli animali non umani, sia per quanto riguarda gli animali umani. E insomma, credo che da questi microfoni e dal pensiero antispecista non deve mai uscire un messaggio che è quello che gli animali umani sono più importanti di quegli animali o il viceversa. Per quanto ci riguarda, ogni forma di autoritarismo e prevaricazione e discriminazione è ingiustificabile e per questo la combattiamo contro tutte le nostre forze. La brambilla è partecipe di questo meccanismo e ne è responsabile, e non è che può fare la finta tonta e venirci a dire davanti a Green Hill che insomma lei è amica dei cani, perché non è vero, perché comunque tra l'altro se n'è uscita quando ci fu la manifestazione di qualche mese fa con la liberazione dei cani, dicendo compriamoli tutti i cani di Green Hill, quindi insomma è pure evidente che è una persona che di cervello capisce molto poco. Perché insomma compriamo di tutti i cani di Green Hill, quando nel senso quelli a chi li vendono non gliene frega niente, cioè nel senso loro fanno gli allevatori dei cani, poi se li vendono per la vivisezione o per qualcun altro non gliene frega niente, per loro i cani sono soltanto merce e in generale per la brambilla, il governo che rappresenta e lo Stato che rappresenta, gli animali sono soltanto una merce. Noi vogliamo combattere questa cosa e quindi insomma non vogliamo in piazza né lei né nessun altro tipo di politico. E da questo punto di vista non vogliamo neanche forme di diciamo animalismo antispecista o antispecismo che porteranno in piazza dei contenuti che siano chiaramente razzisti, sessisti o fascisti. Insomma non ci rappresentano e non rappresentano la lotta di liberazione che è per tutti gli animali. E comunque dai, speriamo sia un bel corteo come è stato quello di 3 anni fa a Roma contro 2 anni fa, non mi ricordo, era un corteo molto nutrito di quasi 15.000 persone. persone di tutti i tipi che però hanno condiviso comunque un contenuto di base, poi all'interno di differenze individuali, anagrafiche, sociali, anche culturali, però ci deve essere comunque un minimo comune denominatore. Noi speriamo, pensiamo che ci sia, però su questo, da questo punto di vista, appunto, nel momento in cui, come dire, un settore della lotta, chiamiamolo animalista, si allarga così tanto quantitativamente e coinvolge tante persone nuove e tanti anche ambienti magari nuovi che non si sono prima mai interessati a tutto questo, ci abbiamo magari, scusate, ci abbiamo magari un bicchiere d'acqua, sto morendo per la causa di Green Hill e sto morendo soffocato per insultare la Bramilla, stai morendo esatto, con dignità, dai. Dicevo, comunque, nei momenti in cui, appunto, ci troviamo in un momento storico in cui una lotta animalista si apre e coinvolge così tante persone, ci sentiamo anche, appunto, che riteniamo sia importante comunque richiamare sempre alla una base culturale, chiamiamola teorica, dai, però che non è che poi sia chissà così tanto complicata, è veramente elementare, cioè la liberazione animale, la liberazione umana e la liberazione della terra, che sono tre processi che devono procedere in parallelo perché sono strettamente collegati tra di loro. Tra l'altro, una cosa, sul Corriere della Sera, sul sito del Corriere della Sera, due giorni fa è apparso un video dove venivano intervistate, chiaramente mantenendo l'anonimato, senza inquadrarle in viso e con la voce modificata, venivano intervistate due persone che sono entrate nell'allevamento di Green Hill il giorno famoso della liberazione delle decine di beagle, mi sembra il 28 aprile, una cosa del genere, e loro, insomma, hanno parlato un po' dei cani, di alcuni cani che sono usciti da questo allevamento. Hanno citato almeno il caso di due cani che sono usciti veramente in condizioni pietose. Una cagna che veniva sfruttata per la riproduzione, quindi veniva continuamente ingravidata, veniva continuamente fatti nascere i cuccioli per incrementare l'allevamento, ha dovuto per mesi essere curata per delle profondi mastiti al seno. E invece il secondo caso, di un cane anemico che adesso, queste persone hanno detto che adesso sta bene, è guarito, ma che ha dovuto sottoporsi per lungo tempo a delle cure veterinarie. Ed è interessante osservare come probabilmente, a loro dire, ed è questo assolutamente plausibile, all'interno dell'allevamento Green Hill questo cane era stato in qualche modo preparato, quindi in qualche modo manipolato prima per poterlo vendere già anemico al laboratorio, che evidentemente conduce esperimenti sull'anemia. Quindi è interessante vedere come, appunto, già all'interno di Green Hill vengono eseguite manipolazioni, vengono eseguite violenze e vengono inflitte sofferenze agli animali, al di là della sofferenza in sé che è rappresentata dall'allevamento, da una madre che si vede strappare i cuccioli perché devono essere venduti, da un cucciolo che viene fatto crescere anemico e via dicendo. Tra l'altro, un'altra cosa, e poi vi lasciamo la traccia musicale, subito dopo la liberazione dei cani di Green Hill, un cane di Green Hill venne fotografato e aveva una lunghissima cicatrice che gli partiva dalla zona genitale fino praticamente quasi al collo. Questo chiaramente è incompatibile con qualsiasi intervento veterinario, nel senso, non era certo dovuto a un intervento di sterilizzazione o cose del genere. Ci chiediamo quella cicatrice a che cosa, perché gliel'hanno fatta e chissà, certo, che cosa c'è dietro. Quindi tutto questo per dire che, appunto, Green Hill dice di allevare semplicemente cani e poi di rivenderli, ma loro fanno tutto secondo legge, secondo coscienza, loro sono semplicemente degli allevatori, per noi sono invece dei torturatori, e lo sono dei torturatori già all'interno dei loro capannoni. E comunque per noi dei semplici allevatori sono dei torturatori. Va bene, dai, vi lasciamo una traccia musicale e poi gli appuntamenti e i saluti. Si è fatta una certa qua, regà, la liberazione, va bene, ma una certa, tocca andare a dormire. Voi non andate a dormire. Se no domani non siamo freschi, vai. Ma siamo, sbagliamo. Allora, rieccoci in studio, è il momento degli appuntamenti. Vabbè, quello del 16 giugno a Roma l'abbiamo già parlato, sabato alle 3 da Cortada Piazza della Repubblica a San Giovanni contro Green, l'allevamento Green Hill della vivisezione organizzato da Occupy Green Hill e dal coordinamento antispecista del Lazio. Altro appuntamento giovedì 14 giugno dalle ore 19:30 a Monza presso la Pentola Vegana. Locale che si chiama Pentola Vegana, un dibattito molto interessante organizzato da Oltre la Specie, si chiama La politica c'entra con l'animalismo, punto interrogativo. A parer nostro ovviamente sì, nel senso che se politica non si intende chiaramente la politica del partito, no? Ovviamente di cui non ce ne frega niente, ma la politica come visione del mondo e come percorso di liberazione animale e umano che procede in parallelo, e di questo insomma ne abbiamo abbastanza parlato a sufficienza. E altro appuntamento, domenica 24 giugno a Latina, la festa del libero orto, solstizio d'estate più o meno. Ogni settimana nuove piante si uniscono a questa piccola grande lotta contro il cemento. Invitiamo abitanti del quartiere, liberi giardinieri di ogni dove ad unirsi al picnic, portando nuovi alberi da frutta e non da piantare, con braciolata e panzanella tutto vegetariano. Si organizzano i lavori di manutenzione più assemblea per organizzare l'innaffiatura estiva. Insomma, una bella iniziativa per portare un po' di verde in una giungla di cemento. Domenica 24 giugno ore 10:30 al Parco del Libero Orto, ovvero sia al Parco San Marco. Altro appuntamento 17 giugno di Dieta in Mocio. Sì, l'altro appuntamento a Bergamo, noi diciamo che diamo degli appuntamenti abbastanza nazionali e qualche volta pure internazionali perché siamo piuttosto così attenti al territorio. Dai un calcio alla TAV, giornata resistente contro la devastazione del territorio, iniziativa che si terrà domenica 17 giugno presso il piazzale della Fara a Città Alta in provincia di Bergamo, organizzato dal coordinamento No TAV di Bergamo. Ci sarà un torneo di calcio e libere partite maschile e femminile e misti, campo regolamentare a 7, insomma. Poi c'è un lungo comunicato che lo potete trovare tranquillamente su informazione.info ci sarà anche un aperitivo vegan dalle 19 e a seguire un concerto musicale. Credo che per quanto riguarda sì, chiaramente il sito dove potete cercarlo è anche www.notavbergamo.over-blog.it, e se volete contattarli potete scrivere a notavbergamo@autistici.org. E poi due appuntamenti benefit per i posi, che li abbiamo sentiti due puntate fa, sono un'oasi per un rifugio per animali da reddito, diciamo, cioè destinati allo sfruttamento animale e allo sfruttamento umano, cioè cavalli, maiali, mucche, anche cani e gatti ci sono, ma anche galline, conigli e via dicendo, che ha dei problemi perché è sotto sfratto. Il primo appuntamento benefit è sabato 23 giugno, Food of Love, la cena sociale vegan presso gli impianti sportivi di Via Austria a Grosseto da parte dell'associazione di De Ollus. Ore 19, presentazione del progetto che accoglie animali salvati da situazioni di sfruttamento. Ore 20 a tavola all'aperto, ovviamente tutto vegan, e dalle 22 musica con Tecnoterra. Il secondo appuntamento benefit di Iposi, lo avevamo già ricordato la scorsa puntata, il 1 luglio 2012 a Castellanza, Liber Animal Fest, festa vegana, dalle ore 16 del pomeriggio fino alla notte, tutta una serie di iniziative, conferenze, laboratori di cucina e autoproduzione vegan, presentazione di progetti e realtà antispecisti, e poi dalle 19:30 cena vegan benefit per il rifugio Fattoria della Pace Iposi, e poi dopo concerto di Massimo Alberti e proiezione di video. L'appuntamento è in via Bettinelli 2 a Castellanza. E poi c'è, ricordiamo un corteo, no? Sì, e poi il 30 luglio a Montichiari. 30 giugno. Sì, ma tanto il microfono era spento, quindi non si è sentito. Dai, questa sera è un po' così perché manca l'altra compagna. Il 30 giugno a Montichiari ci sarà un altro conteo contro Green Hill, organizzato dal coordinamento Fermare Green Hill, manifestazione nazionale contro la vivisezione, appunto. Il comunicato anche in questo caso è molto lungo, approccia anche un po' degli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera, ossia dell'ingerenza nelle istituzioni per fare campagna elettorale sulle spalle dei cani e della vivisezione. E appunto il 30 giugno corteo nazionale contro Grini e la vivisezione a Montichiari in provincia di Brescia alle ore 15:30. Credo che da Roma partino anche dei pullman. In rete potete trovare tutte quante le informazioni anche per partire, e ovviamente sul sito www.fermaregreenhill.net, e poi credo che se cercate su Google trovate anche altri siti. E va bene, e credo che per questa sera sia tutto, no? No, l'ultima cosa l'avevamo detto anche qualche puntata fa, e il rifugio degli animali felici di Luino in provincia di Varese ha bisogno di aiuto perché hanno avuto un incendio molto probabilmente doloso che ha distrutto parte della struttura e purtroppo ha causato la morte di alcuni animali, per cui ci sono al di là del dispiacere e del dolore per gli animali morti, bisogna poi pensare agli animali che sono ancora vivi e quindi ricostruire parte della struttura. Hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di aiuto pratico, hanno bisogno anche semplicemente di solidarietà. Qualsiasi informazione la trovate sul loro sito www.rifugioanimalifelici.it e il contatto email è rifugioanimalifelici@live.it. Va bene, e allora questa volta è veramente tutto. Come al solito mandiamo un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, animali umani e animali non umani. E va bene, dai, ci risentiamo lunedì prossimo. I contatti. Ah, i contatti. Va bene, io ti dico solo che sono le 10:23, eh. Vabbè. Comunque sono le 11:23. Non c'è stop. Cioè io domattina devo fare un esame, renditi conto. Vabbè, i contatti sono... Tu ridi perché... È completamente impazzito. No. Vabbè, insomma, i contatti sono radioposum.noblogs.org e per scriverci, come al solito, mi viene da ridere perché il nome non c'entra niente, ma risale al vecchio nome che aveva questa trasmissione 10 minuti prima che cominciasse la prima puntata, e quindi il contatto email è lagazzaladra@inventati.org. E poi naturalmente i contatti della radio, il sito www.ondarossa.info e il conto corrente postale 6180-4001 per chi volesse sottoscrivere, perché come è noto la radio non campa d'aria, è una radio autogestita senza padrini politici e senza padroni economici, e quindi insomma una sottoscrizione è sempre ben gradita. Ci salutiamo adesso. Ci salutiamo, tutto. Finalmente ci salutiamo. E mettiamo un brano di Megan Reich, molto attinente alla puntata di oggi, No One Is Innocent, nessuno di noi è innocente.